Mi prostro i tre gioielli supremi, così una volta udì il Bhagavan di Maharaj che sulla montagna picca del voltoio insieme a Vassanga di Monaci e Vassanga di Bodhisattva. In quell'occasione il Bhagavan era assorbito nel Samadhi sulle categorie dei fenomeni chiamato percezione profonda. Contemporaneamente il Bodhisattva Mahasattva Aryavitejvara stava applicandosi proprio nella pratica nella profonda perfezione della saggezza e vide anche in cinque aggregati come vuoti un'intrinseca natura. Poi tramite il potere del Buddha il venerabile Shariputra così disse al Bodhisattva Mahasattva Aryavitejvara come ravvestrarsi ogni filo del lineaggio che desideri impegnarsi nella pratica della profonda perfezione della saggezza. Così egli parlò, il Bodhisattva Mahasattva Aryavitejvara rispose allora al venerabile figlio di Saradvati. Shariputra, ogni filo del lineaggio che desideri impegnarsi nella pratica della profonda perfezione della saggezza dovrebbe applicarsi nel seguente modo, apprendendo correttamente e ripetutamente che i cinque aggregati vuoti un'intrinseca natura. La forma è vuota, la vacuità è forma, la vacuità non è altro che forma, la forma non è altro che vacuità. Allo stesso modo sono vuoti sensazione, discriminazione, fattore di composizione e coscienza. Similmente, Shariputra, tutti i fenomeni sono vacuità. Sono privi di caratteristiche, non sono i prodotti, non cessano, non sono contaminati, non sono privi di contaminazione, non diminuiscono, non crescono. Perciò Shariputra, nella vacuità non c'è forma, né sensazione, discriminazione, fattore di composizione e coscienza. Non c'è occhio, né orecchio, né naso, né lingua, né corpo, né mente. Non ci sono forme visive, né suoni, né odori, né sapori, né oggetti tangibili, né fenomeni, neppure il costituente dell'occhio e così via, fino ad includere il costituente della mente e il costituente della coscienza mentale. Non c'è ignoranza, né estensione dell'ignoranza, fino ad includere vecchiaia e morte, estensione della vecchiaia e della morte. Similmente non c'è sofferenza, origine, cessazione, sentiero. Non c'è saggezza suprema, né ottenimento, neppure mancanza di ottenimenti. Perciò, Shariputra, poiché non c'è ottenimento, i bodhisattva si basano e dimorano nella perfezione della saggezza. Le loro menti senza più oscurazione e senza paura. Essendo completamente andati al di là di ogni errore, giungono il punto finale, il Nirvana, ed affidandosi alla perfezione della saggezza, è evidente che tutti i Buddha dimoranti nei tre tempi sono anche completamente risvegliati in insorpassabile perfetta e piena illuminazione. Perciò il mantra della perfezione della saggezza, il mantra della grande conoscenza, il mantra insorpassabile, il mantra uguale a ciò che non uguale, il mantra che pacifica completamente tutte le sofferenze, dal momento che non è falso dovrebbe essere conosciuto come vero. Si proclama il mantra della perfezione della saggezza. Tayata, gate, gate, paragate, parasamgate, bodhisattva. Shariputra in questo modo che il bodhisattva, ma salva, dovrebbe entrarsi nella profonda perfezione della saggezza. Quindi il Bhagavan rimerse da quel samadhi e elogiò il Bodhisattva Mahasattva Aryavitejvara dicendo ben detto, fino del lineaggio, è proprio così, si dovrebbe praticare la perfezione della saggezza proprio che tu hai mostrato, per fini tagata ne gioiscono. Quando il Bhagavan ebbe così parlato, il venerabile figlio di Saradvati, il Bodhisattva Mahasattva Aryavitejvara, l'interessimile intorno all'onde dei semidei Gandharva, esultarono e posarono alte lodi alla parola del Bhagavan. Sangye ancha dan sangye chanam la e janjo bade dane gyapsu chi dange chin sa gyepe sanam ye nala penche sangye droba jo sangye ancha dan sangye chanam la janjo bade dane gyapsu chi dange chin sa gyepe sanam ye Nala penche sangye droba jo sangye anja dan zogye janam la chanjo badu dane gyapsu chi anangye chinsa gyepe sanam ge Nala penche sangye droba jo Quindi per primo dovrebbe cercare di aggiustare la propria motivazione, okay? Quindi abbiamo visto che nell'arco dell'Amrim possiamo trovare tre tipi di motivazione: la motivazione dell'essere di scopo iniziale che ricerca la felicità nella vita futura, la motivazione dell'essere dello stato intermedio, del livello intermedio, scusate, che ricerca quindi l'emancipazione completa di ogni tipo di sofferenza, e l'essere di motivazione superiore che ricerca non soltanto la pacificazione individuale della sofferenza, ma l'estinzione della sofferenza in generale, quindi ricerca l'ottenimento di uno stato che gli permette di prendersi cura, cioè dell'estinzione, cioè di assumere il ruolo di proteggere gli altri della sofferenza, che okay? Questo è lo stato di Buddha. Quindi noi dovremmo cercare sempre di generare la motivazione la più elevata. Poi questi cicli di insegnamenti appartenendo ai trattati del Mahayana, dovremmo cercare di quindi avere questo stesso livello di motivazione. Quindi il modo di procedere, come lo vediamo, l'abbiamo visto, è di prendere in considerazione che siamo molto fortunati, perché siamo ancora in vita oggi, quindi abbiamo la possibilità ancora oggi di cogliere l'essenza di questa vita, possiamo quindi eliminare cause della sofferenza e produrre cose per la felicità futura. Quindi abbiamo una preziosa rinascita umana dotata dei 18 attributi, abbiamo incontrato l'insegnamento del Buddha, che è molto difficile da incontrare, e certi di noi sono sotto anche la cura dei maestri spirituali, quindi da questo punto di vista siamo molto fortunati. Però dobbiamo pensare anche che questa vita non durerà a lungo, okay? E non sappiamo quando si può recidere la continuità di questa esistenza, e non sappiamo neanche dove andremo, che tipo di esperienza andremo a avere dopo questa vita. Okay? Quindi se guardiamo come funziona la nostra mente, vediamo che sì, l'esperienza delle vite sono incongrue al proprio tipo di attività mentale, allora vedremo che c'è grande probabilità per sperimentare sofferenza nelle vite future, visto che la nostra mente è sempre sotto l'influenza della brama, dell'avversione, dell'orgoglio, okay? Tutte la belligeranza, il risentimento, tutte queste cose. Quindi c'è grande probabilità per sperimentare sofferenza nella vita futura, okay? Quindi dobbiamo vedere se effettivamente c'è una possibilità di essere protetto di questa sofferenza. Abbiamo visto che il gioiello Buddha, okay? Quell'essere che ha percorso il sentiero, che ha eliminato tutto ciò che è eliminare, ha sviluppato, consumato tutte le qualità, okay? Il suo insegnamento, cioè il condividere la sua esperienza, okay? E i seguaci, gli Arya, che hanno attualizzato il significato della realtà, eccetera, sono in grado di effettivamente proteggersi di questa sofferenza nella vita futura, okay? Però dobbiamo pensare che anche se otteniamo un'esperienza fortunata come quella umana, che okay, nella vita successiva, vediamo che anche la vita umana è pervasa di difetti, di sofferenze, non è qualcosa che è così confortevole la vita umana, no? Nel minimo dei casi, nel migliore dei casi, dobbiamo nascere, dobbiamo invecchiare, essere ammalati e morire. Questo è nel migliore dei casi. Quindi vediamo che non è qualcosa di soddisfacente. Quindi si dovrebbe alzare di nuovo la propria motivazione, vedere che abbiamo effettivamente, avendo questa vita, questa mente umana, questa chiarezza, questa capacità di discriminare, di analizzare, avendo incontrato l'insegnamento, abbiamo la possibilità di realizzare, no, il modo di esistere dei fenomeni, abbiamo la possibilità di eliminare l'ignoranza della propria continuità mentale e quindi di uscire di questa forma di esistenza condizionata dall'ignoranza, i difetti mentali e le azioni create sotto l'influenza di questi. Quindi è l'ottenimento del nirvana. Nirvana non è un posto, è semplicemente l'estinzione della sofferenza all'interno della propria mente, delle cause della sofferenza. Okay? Quindi abbiamo questa possibilità, abbiamo questo potenziale straordinario. Okay? Però dovrebbe anche prendere in considerazione tutti gli altri esseri senzienti, no? Esattamente come noi vogliamo solo sperimentare la felicità e non vogliamo la minima sofferenza neanche all'interno dei nostri sogni, che okay? Esattamente come noi tutti gli altri esseri sono nella stessa condizione, vogliono la felicità però devono sperimentare difficoltà ore dopo ore, e questo senza capacità di evitare queste cose. Tutti questi esseri nel Mahayana viene spiegato che sono state persone molto vicine a noi nelle vite passate, no? Sono state le proprie madri, infatti viene insegnato che l'esistenza non ha inizio, quindi che tutti noi abbiamo presa, girovaghiamo, si dice sì, in questa esistenza da tempi senza inizio, e quindi ogni volta che dobbiamo prendere nascita, okay, abbiamo un padre, una madre, se ci chiediamo oggi dove sono i padri, la madre delle vite passate, sono gli esseri che sono intorno a noi, okay? se analizziamo un po' l'attitudine di una madre, in generale vediamo che tutta la sua vita, tutta la sua energia, tutti i suoi pensieri sono per i suoi propri figli, no? Cioè mettere in contatto con la felicità, con il benessere, per proteggerli. Quindi esattamente come la madre di questa vita ha questa attitudine, tutti gli esseri nel passato, quando abbiamo avuto questa relazione, hanno mostrato la stessa attitudine ai nostri confronti. Quindi dobbiamo cercare di vedere gli esseri in questa luce e sentire che c'è un grande debito all'incontro degli altri, no? Incontro degli esseri, quindi si dovrebbe, adesso che abbiamo la possibilità di crescere interiormente, di sviluppare delle qualità, generare una certa capacità a beneficiare gli altri, si dovrebbe cercare di assumere questa responsabilità di prendersi cura della felicità degli altri, okay? Però dobbiamo anche essere autentici e vedere che non abbiamo neanche la capacità di compiere la propria felicità personale, quindi diventa difficile di occuparsi degli altri. Allora si dovrebbe riflettere e vedere chi effettivamente ha questa capacità e vedere che lo stato di Buddha, cioè l'essere che ha attualizzato il suo pieno potenziale, ha effettivamente questa capacità e quindi si dovrebbe generare questo desiderio. Posso io anch'io ottenere questo stato per il beneficio di tutti gli esseri senzienti, ok? Quindi sia lo stato di Buddha è qualcosa di molto vago, che non sappiamo bene a che cosa si riferisce, allora almeno dovremmo cercare di generare un'attitudine che desidera che siamo qui, siamo insieme, dobbiamo riflettere, analizzare, cercare di mettere in pratica questi insegnamenti quando sembrano di beneficio, per fare in modo che questa mente diventi una fonte di felicità per noi e per gli altri. Questo dovrebbe essere almeno la motivazione, ok? Quindi questo si chiama la motivazione di bodhicitta, è la più alta motivazione, il più alto stato di mente che si può generare, ok? Quindi cerchiamo di generarlo e di mantenerlo lungo il discorso. Ok, allora noi dove siamo? Siamo quindi abbiamo incominciato l'essere, cioè la contemplazione dell'essere dello scopo intermedio, quindi è una persona che ricerca, che ha contemplato che cos'è un essere dello scopo intermedio, qualcuno che ha una comprensione abbastanza acuta nella natura dei fenomeni, della vita, dei fenomeni che ci circondano, e ha percepito le caratteristiche disfunzionanti di tutto e desidera emanciparci dell'essenza ciclica, della sofferenza in generale. Okay? Quindi abbiamo visto che l'insegnamento, il cuore dell'insegnamento dell'essere di motivazione iniziale, intermedio, sono le quattro nobili verità. Abbiamo parlato, no? Abbiamo visto che c'è la nobile verità della sofferenza, dell'origine, della cessazione e il sentiero. Abbiamo visto perché sono stati insegnati in questo ordine, okay? Quindi c'è una pedagogia dietro, sono stati insegnati nell'ordine non di causa-effetto, ma di realizzazione, okay? Di comprensione che viene generata all'interno del discepolo. E abbiamo visto dopo qual era più o meno l'entità di questa mente di emersione definitiva, okay? Questa mente che ricerca a fuoriuscire dalla sofferenza senza ciclica, e abbiamo visto anche il modo, abbiamo incominciato a vedere il modo per generare questa mente. E il modo di generare quel tipo di mente è il contemplare la propria situazione all'interno dell'esistenza, okay? Si dice il contemplare la sofferenza. Abbiamo visto che questa contemplazione della sofferenza viene articolata in tre grandi sottotitoli di visione, che è la sofferenza in otto, la sofferenza in sei divisioni, e dobbiamo fare oggi la sofferenza in tre, ok? Sofferenza in tre, che sono la sofferenza della sofferenza, la sofferenza del cambiamento e la sofferenza onnipervasiva, ok? Che sono dei punti molto importanti e certi, anche non semplici da comprendere, okay? Allora, abbiamo anche chiarito il perché c'è tutta questa grande enfasi nella sofferenza. Nel buddismo si parla della sofferenza, tutte sofferenze, eccetera. Abbiamo visto che lo scopo di questo quindi non è di diventare depressi, eccetera, è semplicemente perché c'è una possibilità di uscire di questo stato. Se non c'è la possibilità di uscire dallo stato di sofferenza, allora non servirebbe a niente di parlare della sofferenza, anzi sarebbe soltanto aggiungere un livello di sofferenza in più. Ma visto che effettivamente abbiamo effettivamente la possibilità di emergere di questo stato e di dimorare, cioè in beatitudine, in estasi, okay? A non sperimentare neanche il più piccolo dispiacere o sconforto fisico e mentale, okay? Allora ne parliamo. Ne parliamo perché dobbiamo vedere ben chiaramente la nostra situazione e vedere che è nell'entità della sofferenza, perché è soltanto dopo aver compreso ben chiaramente la propria situazione che si desidera emergere di questo stato. È come qualcuno, no, che è convinto di essere in salute, qualcuno che è convinto di essere in salute invece ha problemi fisici, no? Questa persona, finché non è entrata in contatto con il suo stato presente, che è quello di essere ammalato, non desidera andare dal dottore, prendere la medicina e ritrovare uno stato di salute. Nello stesso modo è necessario realizzare la verità della sofferenza per poter generare il desiderio di uscire di questa sofferenza, okay? Quindi dopo aver effettivamente contemplato in un modo dettagliato e vasto e prolungato il proprio stato di sofferenza, allora si riflette, sì, effettivamente c'è un'origine a questa sofferenza. Sì, la sofferenza, no, è un risultato, quindi sì, un risultato sorge da causa e condizione. Dopo c'è l'analisi su quali sono le cause che fanno sorgere questa esperienza, che fa sorgere questa condizione nell'esistenza. E si realizza, si vede che effettivamente l'ignoranza, i difetti mentali, il karma sono l'origine di questa cosa. E a quel momento si capisce che effettivamente eliminando l'ignoranza, che è la radice di tutto, la cessazione della sofferenza può essere sperimentata. E in quel modo si desidera praticare il sentiero che conduce a questa sofferenza, alla cessazione di questa sofferenza. Okay? Ecco perché è importante il discorso sulla sofferenza. Non è semplicemente perché i buddhisti sono dei pessimisti, okay? Semplicemente perché c'è possibilità di evaderci di questa situazione. Ok, quindi per quelli che erano qui la settimana scorsa, avete delle domande rispetto a quello che abbiamo visto? No? Ok, andiamo avanti. Allora, abbiamo quindi i tre tipi di sofferenza, ok? La sofferenza della sofferenza, la sofferenza del dolore, la sofferenza del cambiamento e la sofferenza onnipervasiva di composizione. Sono presentate in ordine di sottigliezza. Okay? Quindi, nell'Am Rinchenmo, come viene presentata la sofferenza della sofferenza? La Mazzongama dice è simile a un, come si dice in italiano, a boil, quando siamo bruciati, no? Che c'è una bolla in contatto con una sostanza irritante tipo il sale o qualcosa di acido, dell'aceto, okay? Quindi la sofferenza della sofferenza è semplicemente tutte le sensazioni che sono universalmente conosciute come spiacevole o disconforto fisico e mentale, okay? Quindi dal mal di schiena, mal di testa, allo stato depresso, alla tristezza, eccetera. Tutte queste si chiamano la sofferenza della sofferenza. E infatti, quando abbiamo guardato la divisione in 8, la divisione in 6, sono illustrazione della sofferenza e della sofferenza. Okay? Quindi, se vogliamo essere più preciso, possiamo anche dire che la sofferenza della sofferenza, quindi sono le sensazioni spiacevole, fisiche e mentale, okay, che sperimentiamo, ma non soltanto quando le sensazioni di una mente o di un corpo tormentato, ma anche gli oggetti osservato a questo momento, gli oggetti osservati e i vari eventi mentali che sorgono in concomitanza a questa esperienza di sofferenza. Mi spiego, ok? Abbiamo nel buddismo, quando ci fa la presentazione, abbiamo la presentazione della mente, abbiamo 5 coscienze sensoriali e una coscienza mentale, ok? La coscienza sensoriale conosciamo, la coscienza mentale è la coscienza che è coinvolta nel riflettere, nel concettualizzare. Okay? Nel seguito di queste varie coscienze abbiamo, cosa c'è principale? Abbiamo anche degli eventi mentali che si chiamano fattori mentali, okay? Come il contatto, la sensazione, la discriminazione, eccetera. Quindi ogni volta, quindi che cos'è la sofferenza della sofferenza? Quando viene sperimentata una sofferenza, una sensazione spiacevole, Questa sensazione esiste nel seguito di una mente principale. Per esempio, se siamo nel contesto di una coscienza visiva, okay? Abbiamo una coscienza visiva che osserva qualcosa di spiacevole. Okay? Quindi la sofferenza della sofferenza, che cos'è? È la coscienza visiva, la sensazione di infelicità concomitante con questa coscienza visiva, ma anche l'oggetto osservato, l'oggetto spiacevole che è osservato a quel momento, può essere una persona, può essere quello che volete. Okay? Quindi tutto questo è la sofferenza della sofferenza. Okay? Quindi non c'è molto da dire sulla sofferenza della sofferenza, perché è facile da realizzare, no? Ogni volta che sperimentate qualcosa di spiacevole, questa è la sofferenza della sofferenza. Rispetto alla sofferenza del cambiamento, qui dobbiamo passarci un po' più di tempo, perché è qualcosa di un po' più sottile. Quindi, sì, la sofferenza della sofferenza viene descritto come le sensazioni spiacevole con la mente concomitante e con l'oggetto di osservazione, che okay, tutto questo è sofferenza della sofferenza. La sofferenza del cambiamento è chiamata sofferenza del cambiamento per le persone che hanno una penetrazione molto acuta nella natura dei fenomeni, okay? Anche quella convenzionale. Per noi la sofferenza del cambiamento è quello che chiamiamo piacere o felicità. Okay? Quindi ogni volta che c'è una sensazione piacevole fisico o mentale che viene sperimentata nel proprio continuum, i buddhisti la chiamano sofferenza del cambiamento. Okay? Quindi la sofferenza del cambiamento cos'è? Sono le sensazioni piacevole, okay? Con la mente principale concomitante e gli oggetti di osservazione. Tutto questo è sofferenza del cambiamento. Allora, la sofferenza del cambiamento possiamo guardarla da vari punti di vista. Qui abbiamo detto che sono tutte le esperienze piacevole, la sensazione piacevole o di felicità. Questo perché è contaminato, dovuto al fatto che è contaminata la base, viene chiamata sofferenza del cambiamento. Quindi non è un'esperienza di sofferenza, è un'esperienza di felicità, però si chiama sofferenza. Bisogna essere molto chiaro su questa cosa. Allora, perché un'esperienza di felicità viene chiamata sofferenza? Strano, eh? Lo possiamo vedere da vari punti di vista. La prima cosa è perché non, tutto essendo impermanente non dura. Okay? Quindi qualsiasi esperienza piacevole dovuto a un incontro, dovuto a una situazione, okay? O semplicemente dovuto a un alzarsi della temperatura, un abbassarsi della temperatura, tutte queste esperienze di piacere che sono sperimentate sono chiamate sofferenza perché non dura. Okay? Quindi alla fine la persona rimane le mani vuote, nello stato di prima, con semplicemente l'insoddisfazione e il desiderio di riprodurre di nuovo questa esperienza. Okay? Quindi questo è molto... Quindi si chiama sofferenza del cambiamento, la felicità che noi sperimentiamo, è sofferenza del cambiamento perché non dura e alla fine rimane solo l'insoddisfazione. Questo è un angolo abbastanza semplice. L'altro modo di osservare questa cosa è di vedere che, come lo dice Aryadeva nel suo testo delle 400 strofe, dice che la felicità è distrutta dalle sue proprie cause. Quindi tutti i fenomeni composti, tutto ciò che sorge da causa e condizione è nella natura dell'impermanenza, okay? È uno stato di disintegrazione, di mutamento continuo. Quindi un fenomeno, perché dovuto al fatto che è stato creato, non ha bisogno di altre condizioni per essere distrutto. Okay? Una volta che qualcosa viene creato, l'istante dopo, okay, entra in uno stato di disintegrazione continuo. Semplicemente perché le cause che l'hanno prodotto non hanno la capacità di mantenersi, okay? Quindi il fenomeno prodotto, anche lui non ha la capacità di mantenersi. Quindi la felicità è distrutta dalle sue proprie cause. Cosa significa? Significa che ciò che vi porta, che ci porta felicità adesso, in un certo periodo, in un certo momento, nel futuro questa stessa cosa ci porterà a sofferenza. Questa stessa cosa lo avete sperimentato in tutto, nelle vostre relazioni, eccetera, no? Non è qualcosa di nuovo. Ciò che porta a piacere col tempo porta anche sofferenza. Quindi, semplicemente, quindi, prendiamo, prendiamo un esempio, no? Quello che è ben conosciuto è l'esempio della spiaggia, no? D'estate, d'estate abbiamo come... quando ci do, una volta che abbiamo finito di lavorare, che arriviamo all'estate, no? La prima cosa che ci passa in mente è di andare in spiaggia, no? Si va in spiaggia, eccetera, e arriviamo, ci sdraiamo al sole, quindi all'inizio questa esperienza è abbastanza piacevole, no? È piacevole essere sdraiato al sole, eccetera. Però, visto che è tutto della natura dell'impermanenza, che no, tutto è contaminato all'interno dell'isola ciclica, questa esperienza di benessere piano piano si trasforma in un'esperienza, c'è uno sconforto, in un'esperienza di sofferenza, nel senso che ciò che all'inizio era piacevole diventa spiacevole, semplicemente perché scotta a un certo punto, no? Siamo bruciati dal sole, quindi diventa sconfortevole. Quindi cosa facciamo? Okay? Ci alziamo e andiamo a tuffarsi, ci andiamo in acqua, entriamo in acqua, quindi sperimentiamo un sollievo della sofferenza del caldo, è dovuto al contatto con l'acqua fresca, ci sentiamo bene, no? Però se rimaniamo un po' troppo tempo anche nell'acqua, anche questo piano piano si trasforma, no? E c'è la sofferenza del freddo che sorge. Quindi cosa facciamo? Si esce dall'acqua, si ritorna al sole. E siamo confortevoli per un po' di tempo, però piano piano questo stesso fenomeno torna, nel senso che siamo bruciati dal sole, quindi dobbiamo ripartire e rimettersi in acqua, eccetera, eccetera. Quindi tutto quello che sperimentiamo è così, nel senso che la felicità che possiamo sperimentare è semplicemente dovuta a una situazione sconfortevole. Ok? Mi spiego. Sì, non c'è un disagio anche se non è percepito come disagio, perché è tutto molto automatico. Sì, non c'è questo disagio, questa esperienza, questo sconforto, allora l'esperienza di felicità, ciò che noi prendiamo per esperienza di felicità, non può sorgere. Perché che cos'è questa esperienza di felicità? È semplicemente una diminuzione di una sofferenza precedente, no? C'è la sofferenza del caldo, ok? Si entra in acqua, quindi c'è una diminuzione della sofferenza del caldo dovuta al contatto con l'acqua fresca. Però dopo c'è stessa cosa per il freddo, no? Bisogna uscire dall'acqua, eh? E il contatto al sole diventa di nuovo piacevole semplicemente perché prima c'era lo sconforto del caldo. Quindi è tutto così, no? Quindi la nostra capacità di sperimentare felicità nella vita di tutti i giorni dipende dall'esistenza di un disagio precedente. Quindi non abbiamo problemi perché il disagio è latente, è sempre presente. Quindi ogni volta che noi entriamo in una situazione, tutto questo è a un livello inconscio, no? Non è che la cosa viene riconosciuta come un problema, eccetera. Siamo sempre alla ricerca di cose, siamo sempre alla ricerca di contatti, semplicemente perché stiamo sempre cercando di uscire di una situazione spiacevole o sconfortevole, eh? E il contatto è ciò che fa cessare o ciò che fa diminuire il sconforto precedente, viene sperimentato come viene imputato, etichettato o appare alla mente come una situazione di piacere, qualcosa che dobbiamo ottenere, eccetera, eccetera. Ma tutto è semplicemente dovuto a una sofferenza precedente, uno sconforto precedente. Per esempio, pensiamo che mangiare insieme il sabato sera o il venerdì sera è piacevole, no? Andare con gli amici a mangiare al ristorante, a bere un po', eccetera, può essere piacevole, no? Però è piacevole mangiare solo se c'è la sofferenza della fame. Nel senso che se non avete fame, mangiare, cioè, non interessa a nessuno. Quindi anche essere insieme con gli amici, eccetera, è piacevole se vi sentite soli. Se vi sentite soli, non avete nessuna voglia di incontrare delle persone. Okay? E comunque una volta che abbiamo incontrati delle persone, che abbiamo passato un po' di tempo con loro, ne abbiamo abbastanza, cioè vogliamo ritornare da soli. Poi se passiamo un po' troppo tempi da soli, vogliamo di nuovo essere in contatto con gli altri. È sempre così, no? Quindi per noi esseri ordinari, condizionati dall'afflizione, dall'ignoranza, eccetera, ciò che noi etichettiamo come felicità è semplicemente una diminuzione di una sofferenza precedente, no? E, il problema quindi è che la sofferenza che deriva di ciò che utilizziamo è proporzionale all'uso che abbiamo dell'oggetto. Noi vogliamo, l'unica cosa che vogliamo è sperimentare la felicità. Quindi quando siamo in una situazione dalla quale possiamo derivare un po' di felicità, cerchiamo di estrarne il più possibile. E automaticamente, quindi, la delusione, dice la delusione? Okay? La delusione, la sofferenza alla fine è proporzionalmente grande diciamo, all'intensità nella quale andiamo a buttarci dentro. Questo lo vediamo nelle relazioni, eccetera, in molte cose. Quindi sì, il problema è quindi che andiamo a ricercare la felicità dove infatti non c'è felicità. Questo è il problema. Andiamo a ricercare la felicità dove infatti non c'è la felicità. La nostra mente non è in grado di comprenderlo. Sì, le cose verso le quali cerchiamo di derivare felicità erano effettivamente della natura della felicità, allora non potrebbero mai cambiare, l'esperienza non potrebbe mai cambiare. Ci sarebbe felicità all'inizio, felicità durante e felicità alla fine. Non soltanto, ma la felicità dovrebbe aumentare. Più si utilizza un oggetto, più la felicità dovrebbe aumentare. E non è così. Non è così perché i fenomeni o i vari supporti sulle quali noi ci appoggiamo per estrarre il benessere non sono nella natura del benessere. Per esempio, se prendiamo il fuoco. Il fuoco si mette la mano dentro e l'intensità del dolore cresce col tempo. Non è che a un certo punto questa esperienza di sofferenza si trasformi in un'esperienza di piacere, non è il caso. Invece con la sofferenza, con la felicità è proprio così. Ciò che è piacevole diventa sofferenza, no? Mangiamo, abbiamo fame, quindi si mangia, quindi abbiamo simultaneamente cosa accade? Abbiamo una diminuzione della sofferenza della fame, ok? E abbiamo la crescita della sofferenza del cambiamento, okay? Quindi appena incominciamo a mangiare c'è un tipo di sofferenza che si finisce, ma un altro incomincia, ma non viene riconosciuto come della sofferenza perché è molto sottile, e non è neanche ancora manifesto come stato di sofferenza vera e propria. Però se continuiamo a mangiare, no? La sofferenza, cioè a un certo punto mangiare diventa sconfortevole, diventa una sofferenza. Infatti dobbiamo fermarsi a un certo punto, però in generale è raro quando riusciamo a fermarsi. In generale si esce sempre di tavola, che siamo, quindi non è uno stato confortevole, quindi abbiamo visto, no, la spiaggia, tutto, no? Il mangiare, questi supporti che sembrano felicità, più andiamo a utilizzare, più andiamo a cercare di usufruire di questa cosa, e meno la felicità viene sperimentata, invece la sofferenza cresce. Questo perché il supporto è proprio nella natura della sofferenza. Sì, il mangiare la pasta o il mangiare la pizza è felicità in sé, allora più ne mangiamo più siamo felici. Normale, perché è nella natura della felicità. O essere con gli amici, o andare a sciare, quello che volete. Potete provare quello che volete, è così, no? Più si utilizza l'oggetto, e meno la sofferenza viene la felicità viene sperimentata, e a un certo punto è proprio sofferenza che viene sperimentata. E non si può più, dobbiamo lasciare la cosa, ok? Lascia la cosa, e girarci verso qualcos'altro. E il girarci verso qualcos'altro, ok? È una diminuzione della sofferenza precedente, ok? E quindi questa diminuzione viene percepita come qualcosa di piacevole. È come, per esempio, tutto, andiamo a camminare. Può essere piacevole camminare, no? Cioè, nei boschi, nella riva al mare, quello che volete, no? Se camminare è anche piacevole. Però a un certo punto non si può più camminare. Ma c'è la sofferenza del camminare che si manifesta. Quindi dobbiamo mettersi a seduti. E quindi dopo una lunga camminata è molto piacevole mettersi a seduti. Però dopo un po' di tempo il piacere di essere seduto, no? di essere seduto, si trasforma, no? E diventa nella natura della sofferenza. E quindi si cambia posizione, eccetera. E diventa sconfortevole. Quindi a quel momento, no? La sofferenza dell'essere seduto diventa manifesta. E allora dobbiamo mettersi in movimento di nuovo. Ok? E dopo diventa piacevole essere in movimento ai livelli iniziali, però dopo un po' di tempo questa sofferenza torna. Quindi cosa ci illustra questa cosa? Illustra semplicemente che qualsiasi supporto sul quale ci appoggiamo, no? Sul quale ci giriamo per ottenere la felicità, non ci può dare il livello di felicità che noi vogliamo sperimentare. Okay? Non c'è niente sul quale ci possiamo affidare per trovare una felicità che nel fondo del cuore vogliamo ottenere, perché noi non vogliamo ottenere semplicemente delle mere diminuzioni, dei disagi di qua di là, nel migliore dei casi. Vogliamo sperimentare una felicità duratura, uno stato di piacere, uno stato di felicità che non cambia, anzi che incrementa, ok? È questo che abbiamo, è con quella speranza che noi ci buttiamo nella relazione, ci buttiamo nel lavoro, ci buttiamo nelle vacanze, in fare lo sport la domenica, in tutte queste cose. E con questa speranza, no? Perché ci sentiamo incompleti, ci sentiamo insoddisfatti e ricerchiamo quindi un livello di soddisfazione, di piacere che ci completa, che ci senta sì, completi. Però questo non lo possiamo trovare negli oggetti esterni, non lo possiamo trovare nelle varie situazioni, nelle persone, è impossibile, ok? Perché tutto questo è sofferenza del cambiamento. Quindi la sofferenza del cambiamento che cos'è? Semplicemente andare al bagno, ok? Quando si va al bagno siamo sconfortevoli, no? Andiamo al bagno e si esce, facciamo quello che dobbiamo fare e si esce col sorriso, è un sollievo. Non c'è nessuno che prende l'esperienza di andare al bagno per un'esperienza di felicità. È la stessa cosa, quindi tutto, cioè il mangiare, il bere, cioè il dormire, il camminare, cioè tutto questo è sofferenza del cambiamento, la felicità è distrutta dalle sue proprie cause, okay? Quindi è molto importante riflettere su queste cose, okay? Questo non significa che dobbiamo tagliarci di tutto quello che ci fa piacere, no? Che non dobbiamo più andare a vedere gli amici, non dobbiamo più andare al cinema o non dobbiamo più guardare la TV, anzi questo può darsi, ma non dobbiamo più, diciamo, andare in spiaggia, eccetera, eccetera. No, continuiamo a fare queste cose, perché comunque c'è un equilibrio in tutte le cose, però dobbiamo farlo con una mente consapevole di quello che stiamo facendo, no? Non più con questa fantasia, no? Questa sovrimposizione. Dobbiamo eliminare le sovrimposizioni. Ciò che ci impedisce la felicità sono tutte queste sovraimposizioni, queste aspettative che abbiamo. Quindi quando fa 40 gradi d'estate, che avete sete, no? Che andate verso il frigo a prendere la coca fredda, la coca fresca, no? Pensate, questa è la sofferenza del cambiamento, questa è la verità della sofferenza. Questo non significa che non dobbiamo più bere fresco d'estate, che semplicemente dobbiamo essere consapevoli che la Coca-Cola non è di per sé la felicità, non è in sé la felicità, è in tutti i sopporti non è di per sé la felicità. Okay? Quindi, sì, non so se ho fatto passare il punto, si è passato. Comunque dovete riflettere su queste cose. Okay? È importante analizzare, no? Dobbiamo analizzare. Quindi il buddismo questa è la più grossa, diciamo, la forza del buddismo è l'analisi, okay? si osserva, si analisi e si conclude. E dovete fare questa stessa cosa, perché altrimenti questo è l'unico modo per liberare la mente. Adesso la mente è attaccata a un sacco di cose. Si vede quando partiamo in vacanze, portiamo un sacco di cose, no? Perché se ne abbiamo queste cose, la felicità è impossibile. Quindi siamo attaccati a... Se possiamo portarsi la casa, ci portiamo la casa. Ok? Quindi la mente, cioè, non è libera. È legata. Ok? È legata perché? Perché ha la sovraimposizione di felicità su queste varie cose. Questo mi porta a felicità, quindi automaticamente ricerca il contatto. Quindi il lavoro è semplicemente far capire alla mente che qui la felicità non c'è e che alla fine c'è solo l'esperienza di sofferenza. Solo l'esperienza di sofferenza viene manifestata. Okay? Questo è il lavoro. Quindi continuate a fare quello che fate, dobbiamo continuare a fare quello che facciamo perché altrimenti la cosa non funziona. Okay? Però dobbiamo analizzare, vedere se effettivamente il livello di felicità che speravo estrarne è effettivamente presente. Okay? Sì, questa felicità dura, sì, questa felicità aumenta con l'utilizzo di questi vari oggetti. In generale, più andiamo a utilizzare gli oggetti di attaccamento, cosa accade? Allora, come? Allora, già c'è questo aspetto, è chiaro che c'è questo aspetto che i fenomeni comunque sono dei prodotti, questi sono impermanenti, quindi si rompono, eccetera. Ma cosa accade anche a livello mentale? Più ricerchiamo la soddisfazione nei vari situazioni esterne, più automaticamente le afflizioni crescono, perché... Più corriamo dietro, più cerchiamo di soddisfare l'attaccamento, più l'attaccamento cresce, più l'insoddisfazione cresce, più la mente diventa instabile, più la mente diventa debole nella sua capacità a rimanere in uno stato non disturbato quando questa non viene gratificata, non viene gratificata, quindi un piccolo problema, una piccola contraddizione diventa una cosa, non si dorme, quindi più si corre dietro l'attaccamento, più l'attaccamento cresce, okay? Quindi questo è come bere dell'acqua salata, e comunque alla fine c'è sempre l'insoddisfazione, quindi... Che cos'è questa sofferenza del cambiamento? Questa sofferenza del cambiamento, no? È una sofferenza della sofferenza non manifesta. Possiamo metterla così. La sofferenza del cambiamento, che sono tutte queste esperienze di felicità che noi sperimentiamo, sono sofferenze della sofferenza non ancora manifesta. Aspettate un po' e diventano manifeste. Beh, a quel momento il problema è che c'è... ci rifiutiamo, no, a guardare le cose, ci rifiutiamo a analizzare subito, visto che, e questo è una cosa innata, è anche, cioè, una cosa normale, no? Vogliamo sperimentare la felicità, quindi tutto ciò che è spiacevole non andiamo neanche a considerarlo, non andiamo neanche a analizzarlo. Però, come diceva l'altra volta si diceva, no, che abbiamo detto che la sofferenza ha qualcosa da dirci. Dobbiamo ascoltare la sofferenza perché ha qualcosa da spiegare, ci dice che c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa da cambiare, c'è qualcosa che non va, un modo di operare, il modo di entrare in contatto, di interagire con le situazioni, le persone, i fenomeni non è congruo con la realtà. La sofferenza ci impara questo, perché più il nostro modo di interagire in accordo, cioè il modo di le nostre aspettative il modo di interagire con l'esterno è in accordo al modo di dimorare dei fenomeni, alle loro caratteristiche anche convenzionali, come il fatto che sono impermanente, eccetera eccetera eccetera, allora automaticamente la mente è molto più serena. Molto più serena, perché non ha tutte queste sovraimposizioni. Pensate che, no? Perché Anche se sappiamo che a livello intellettuale, no? Che un fenomeno, che un oggetto è impermanente, anche se lo sappiamo, il nostro modo, nel nostro cuore, all'interno, cioè, non c'è questa comprensione. E il nostro modo di interagire con questo fenomeno è come se fosse era permanente. È la stessa cosa con le relazioni, la stessa cosa con le persone. E ogni volta, quindi, che siamo confrontati alla realtà obiettiva dell'oggetto, okay? Allora no, si cade dall'alto automaticamente. Quindi l'impatto è più violente e quindi la sofferenza è automaticamente più violente. Invece sì, siamo consapevoli che tutto è impermanente, che tutto alla fine della natura della sofferenza, okay? Che tutto cambia, tutto ciò che è stato aggregato sarà, così dice, sparso, tutto ciò che è stato riunito sarà separato, tutto ciò che è prodotto sarà distrutto. Allora, cioè, l'attaccamento, anche se si manifesta, c'è una presa molto più, meno salda, no? E quindi automaticamente la mente si sente molto più serena quando è confrontata a queste cose. Invece il nostro modo di interagire è proprio, sì, nel buio dell'ignoranza. Quindi anche, non parliamo neanche dell'ignoranza che è in relazione al modo di esistere dei fenomeni, ma semplicemente è quello che è in relazione ai caratteristiche convenzionali, no, dei fenomeni. Noi abbiamo quattro sovraimposizioni che ci impediscono la felicità, no? Quattro sovraimposizioni, che sono eliminate dalle quattro attributi della prima nobilità della sofferenza. Abbiamo la sovraimposizione di permanenza dove c'è di permanenza dove c'è l'impermanenza. Questo è un problema. Abbiamo la sovraimposizione di felicità dove invece c'è solo la sofferenza. Questo l'abbiamo illustrato adesso. Questa è l'illustrazione proprio di questa, la sofferenza del cambiamento. Abbiamo la sovraimposizione di puro, dove invece c'è l'impuro. Questo l'abbiamo rispetto al corpo, per esempio, no? O pensiamo che la nascita è il miracolo della vita, okay? O che il corpo è di natura pura, eccetera. Invece è completamente impuro. E abbiamo la sofferenza dopo, abbiamo scusate, la sovraimposizione di esistenza, sì, andiamo a sovrimporre l'esistenza di un sé. Okay? Dove invece non c'è. Quindi queste quattro sovraimposizioni, queste sono delle concezioni erronee, quindi delle mente erronee, che okay? Sono quasi sempre manifeste, e quindi creano molti problemi, molte sofferenze. Quindi per il buddismo la fonte della sofferenza è questo, quindi nella mente, no? Quindi anche la fonte della felicità. La felicità, la sofferenza non dipende da chi, diciamo, chi si circonda, dove viviamo, come viviamo, ma da come la mente interagisce, okay? Interagisce con l'ambiente, le persone, la situazione. Sì, questa mente ha delle distorsioni rispetto al modo di esistenza delle cose, allora automaticamente la mente viene disturbata, no? Abbiamo le afflizioni mentali. Si crea il karma e si sperimenta la sofferenza. Se invece la mente non ha questa sovraimposizione, allora non ci sono più problemi, non ci sono più, non c'è più la delusione, non c'è più non c'è, le afflizioni mentali non sorgono, eccetera. Perché un'afflizione mentale, no, come l'attaccamento o quell'avversione, è una risposta logica al nostro modo di percepire e di concepire l'esistenza delle varie cose, delle persone. Guardiamo un po' come ci appaiono le varie cose, i vari fenomeni e persone. Ci appaiono come avendo un'esistenza indipendente o autonoma. Qui, per esempio, abbiamo una bottiglia, no? Questa bottiglia esiste nella bottiglia, ok? Esiste del suo proprio lato, ha un'esistenza autonoma, non dipende dalla mia mente per esistere. Questa è l'apparenza che abbiamo, giusto? Rispondetemi. Quindi cioè il modo in quale con gli occhi questa bottiglia ci appare è che esiste indipendentemente dalla mente. un'esistenza di per sé, esiste per il suo proprio potere, ha un'esistenza oggettiva. Qui c'è una bottiglia. Quindi, e automaticamente dopo, se abbiamo questa apparenza e che ci afferriamo e pensiamo che questo effettivamente è congruo alla realtà, allora dopo, dovuto alle predisposizioni, certi oggetti ci apparono anche come avere delle caratteristiche piacevole e spiacevole del loro proprio lato. Avremo una bottiglia che è piacevole, una bottiglia che è spiacevole. Quindi avremo delle persone con delle caratteristiche cioè intrinseche, come persone che sono attraenti, belli, gentili, piacevoli, e altri invece che sono le persone brutti, cattivi, con pieni colmi di difetti. Questa è l'apparenza che abbiamo, e pensiamo anche che questi difetti, queste caratteristiche esistano indipendentemente dalla mia mente, esistono nelle persone, ok? Quindi, visto che abbiamo questa apparenza, automaticamente abbiamo la generazione dell'attaccamento per ciò che appare come piacevole e dell'avversione per ciò che appare come spiacevole, perché queste caratteristiche appartengono agli oggetti di osservazione, non sono più apparenza alla mia mente, ma sono intrinseche a questi vari oggetti. Quindi automaticamente l'avversione, l'orgoglio, la belligeranza, il risentimento, tutto questo sono risposte logiche al modo di apparire, nel senso che le afflizioni hanno un posto per atterrare, quindi ci vanno. Quindi qual è la soluzione? La soluzione, come si è insegnata, no? È a realizzare che infatti tutti i fenomeni sono privi di caratteristiche intrinseche, okay? Che tutto questo sono le proprie produzioni della mente, sono delle proiezioni della propria mente, okay? E in quel modo, quindi, quando dopo un lungo lavoro, un lungo sentiero di analisi, eccetera, si riesce quindi a percepire questa realtà, questo modo di esistere, che i fenomeni dipendono dalla mente, è la mente che crea i fenomeni, okay? Allora a quel momento queste attività mentali, no? Come l'attaccamento, l'avversione, non possono più sorgere. È impossibile a una persona che ha realizzato che i fenomeni sono privi di caratteristiche intrinseche, non che queste caratteristiche di essere attraente o sgradevole sono delle proiezioni della propria mente, che dal lato dell'oggetto l'oggetto è vuoto di questi attributi, allora le attività mentali dell'avversione, dell'attaccamento, eccetera, non possono più sorgere. Okay? Questo è il nirvana. Questo è il nirvana. Comunque, non ci siamo ancora. Ok, quindi eravamo alla sofferenza del cambiamento. Ok, quindi abbiamo visto la sofferenza del cambiamento sono tutte le sensazioni piacevoli che noi possiamo sperimentare. Ok? Queste sensazioni piacevole esistono semplicemente perché un istante prima c'è un disagio, c'è un problema, c'è un'insoddisfazione, c'è uno sconforto. Allora il sollievo o la diminuzione di questa esperienza spiacevole, no? Il sollievo di questa esperienza ci appare alla mente come essendo felicità. Quindi ci convogliamo in azioni, spendiamo dell'energia, del tempo per ottenere delle cose che alla fine non risolvono il problema. No? Pensiamo per esempio che dobbiamo riempire il frigo di Coca-Cola perché la Coca-Cola ci rende felice, ma non è la Coca-Cola che ci rende felice. La Coca-Cola ci permette solo di diminuire la sofferenza della sete quando abbiamo caldo. Quindi è come tutta la sofferenza del cambiamento, no? È come quando abbiamo le zanzare, no? Che ci vengono a pungere, così dice. Quindi si gratta e c'è un certo piacere, no? C'è un sollievo a grattarsi. Ma non sarebbe meglio se non avevamo la puntura già dall'inizio? Certo che finché abbiamo le punture di zanzara dobbiamo grattarle, perché fa bene, è un po' di sollievo, ma sarebbe molto meglio di non avere le punture. Quindi il nirvana è l'assenza di punture. Questo è il nirvana, è l'assenza di punture. Non abbiamo più bisogno, cioè una volta che il modo di esistere dei fenomeni viene realizzato, che abbiamo realizzato il modo di esistere finale della persona, della propria mente, tutti i vari fenomeni, allora anche se siete circondati di oggetti di attaccamenti o di oggetti di avversione, quindi che prima avrebbe scattati varie emozioni, sensazioni di attività di attaccamento, di avversione, la vostra mente, la nostra mente non è più disturbata, dimora in uno stato di estasi senza essere coinvolti in questi oggetti esterni, senza essere coinvolti in questi oggetti. Quindi la mente diventa una fonte di felicità in sé e per sé. Okay? Non ha più adesso la nostra felicità, siamo in uno stato molto precario, perché per essere felici dipendiamo dalle cose, dipendiamo dalle persone, dipendiamo dai vari oggetti, dipendiamo da questo, dipendiamo. Quindi una sensazione di dipendenza. Chi dice dipendenza dice siamo in stato precario e anche di debolezza a un certo livello, perché il giorno in quale queste cose non ci sono, sofferenza, insoddisfazione, la mente disturbata. Invece il nirvana è la mente che, visto che non ci sono più tutte queste attività turbolente che sono scatenate dalle varie apparenze che abbiamo, che il nostro modo di percepire, di concepire la realtà convenzionale, no? Tutto ciò che ci intorno è congruo al modo di esistere di questi fenomeni, la mente dimora in uno stato di estasi, di beatitudine, e non ha più bisogno di niente per portare avanti la continuità di felicità. Non ha più bisogno di niente, perché ha attualizzato il potenziale. Cioè, tutte le afflizioni, tutta l'afflizione mentale, l'ignoranza, è stato completamente eliminato. Quindi la mente dimora, come dice, questo gioiello, no? Dimora in il suo stato, questo stato diventa manifesto, quello stato di limpidezza della mente, di chiarezza diventa manifesto. Adesso è completamente scoperto da tutte queste preconcetti, il tumulto, cioè, di tutte queste afflizioni, no? Guardate, è molto importante girare, cioè, lo sguardo verso l'interno, perché altrimenti non saremo mai in contatto col proprio stato. Quindi noi adesso siamo sempre coinvolti nell'esterno, guardiamo i vari oggetti dei sensi, guardiamo le persone, quelle che fanno, quello che non fanno, ma poi ci elabora su quello che dovrebbero fare, quello che non dovrebbe essere fatto, però invece dovrebbe guardarci quello che accade nella propria mente. Sì, guardate che accade nella propria mente, no? Quando sabato pomeriggio passate in una strada dove ci sono i vari negozi, dove ci sono molte persone che possiamo incrociare, vedete la nostra mente come si progetta sulle varie cose, no? Questo è piacevole, questo è piacevole, questo piace, attaccamento, questo non piace, questa persona, attaccamento, avversione, oscilla così, attaccamento, avversione, e poi c'è l'afferrarsi, no? Cioè tutto è estremamente concreto, tutto è reale, bom bom bom. Alla fine della giornata, certo che siamo stanchi, solo dovuto a quel tipo di attività mentale, certo che siamo stanchi. Quindi la mente è in uno stato di agitazione, e questa agitazione è dovuta semplicemente entrare in contatto con i vari oggetti sulle quali andiamo a sovrimporre questi attributi di piacevolezza, si dice? Okay? O di bruttezza, eccetera. Quindi questa è la sofferenza. Questo è la sofferenza. Non c'è bisogno di aver mal di schiena, di aver la febbre, eccetera. Questo è la sofferenza. La mente non controllata, la mente agitata, okay? Che concettualizzano, questa è la sofferenza. Quindi è molto importante di entrare con questo, entrare in contatto con, realizzate quanto la propria mente è ammalata, perché finché questo non è ben realizzato, il desiderio di uscire di questo stato, il desiderio di ottenere la liberazione di questo, ok? Non sorgerà mai, o sarà solo delle parole sulla lebbra, okay? Sulle lebbre. E quindi, perché per ottenere quel stato ci vuole molta energia, è una cosa molto impegnativa, molto difficile, quindi ci vuole una certa energia, una certa dedicazione, si dice dedicazione? Dedizione, diligenza, sforzo, e questa diligenza, questo sforzo, okay, è proporzionale al livello di mente di emersione definitivo che abbiamo generato, mente di rinuncia. Si parla di rinuncia, ma la rinuncia è una parola che non mi piace perché fa paura, cioè rinuncia, devo rinunciare, cioè, tecnicamente si chiama la mente di emersione definitiva, perché si vuole emergere dalla sofferenza, okay? Di questo. Quindi questo abbiamo introdotto in quel modo il terzo livello di sofferenza, che è la sofferenza onnipervasiva di composizione. Okay? Questo è molto sottile. Okay? Quindi ci sono le varie tradizioni spirituali che troviamo nel mondo, hanno dei metodi per liberarsi dai primi due, sofferenza della sofferenza e sofferenza del cambiamento. Ci sono dei metodi, ok? Per esempio, quando nel buddismo l'universo o le dimensioni di esistenza, abbiamo tre, no? Abbiamo la dimensione del desiderio, dimensione della forma e del senza forma. La dimensione del desiderio è abbastanza facile, ci siamo dentro, vedete, no? Le nostre coscienze hanno sete per i vari oggetti, no? La lingua vuole dei sapori, le orecchie vogliono dei suoni piacevoli, la coscienza sensoriale, la coscienza tattile vuole sperimentare il contatto piacevole, gli occhi vogliono vedere delle colori e delle sagome piacevoli, quindi la nostra mente è sempre in questo stato. Questa è la dimensione del desiderio. Okay? Allora qui trovate, in questa dimensione trovate tutti i tipi di sofferenza, sofferenza del sofferenza, sofferenza del cambiamento, sofferenza onnipervasiva di composizione. Poi c'è la dimensione della forma. La dimensione della forma viene proiettata dallo sviluppo di stati di concentrazione molto elevate, per esempio sì sul supporto di un essere umano all'interno del rame del desiderio, si riesce a sviluppare uno stato di concentrazione. Quindi sono vari stati di concentrazione, abbiamo quattro livelli di concentrazione suddivisi in tre, più quattro assorbimenti del senza forma, quindi abbiamo 12 più 4, 16 livelli di concentrazione che possono essere sviluppati. Okay? Se si sviluppano di questi livelli di concentrazione, alla fine di questa vita si prende rinascita nel livello proporzionale al livello di concentrazione. E in questa dimensione non c'è né la sofferenza della sofferenza né la sofferenza del cambiamento. C'è solo la sofferenza onnipervasiva di composizione. Quindi è l'azione così potente che ci proietta in questa dimensione per molto tempo. Quindi la mente non esperimenta sofferenza, neanche quella dell'insoddisfazione. E in questa dimensione la felicità non si trasforma in sofferenza, come nella nostra dimensione. Però anche lì, in questo stato, comunque si muore e si prende rinascita. Ok? E una volta che siamo in alto dobbiamo scendere, no? È un punto su una ruota. Dove ero? Non so perché. Il senza forma. E poi abbiamo il senza forma. Il senza forma sì, è un altro livello di concentrazione ancora superiore, dove ci sono solo quattro aggregati mentali, non c'è l'aggregato della forma. Okay? Quindi questo lo lasciamo da parte per adesso. Questa era per introdurre quindi la sofferenza onnipervasiva di composizione. Che cos'è la sofferenza onnipervasiva di composizione? Abbiamo visto che la sofferenza della sofferenza sono le sensazioni spiacevole con le coscienze, e gli oggetti che vengono osservati. Abbiamo visto che la sofferenza del cambiamento sono le sensazioni piacevole, le coscienze con le quali sono concomitante e gli oggetti osservati. E la sofferenza onnipervasiva di composizione, che cos'è? Sono le sensazioni neutre, con le coscienze, con le quali sono concomitanti, e oggetti di osservazione. Quindi non è né un'esperienza di piacere, né un'esperienza di sofferenza. Allora sì, riprendiamo questa analogia della bolla, ok? Allora, sofferenza della sofferenza è questa bolla con il contatto con una sostanza irritante. Sofferenza del cambiamento è questa bolla con il contatto con una sostanza di soglia, con dell'acqua fresca, per esempio. E invece la sofferenza del cambiamento non è né in contatto con una sostanza irritante né in contatto con una sostanza di sollievo. Quindi una sensazione neutra. Sensazione neutra ne abbiamo un sacco, ne abbiamo molti. Quindi la sofferenza onnipervasiva di composizione sono semplicemente i cinque aggregati che costituiscono una persona in uno stato ordinario. Quindi la nostra persona, un essere, è costituito da cinque aggregati, che sono gli aggregati, i costituenti fisico-psichici. Abbiamo un aggregato della forma e quattro aggregati mentali, che sono la discriminazione, cioè la sensazione, discriminazione, fattore di composizione e coscienze. Ok? Quindi la sensazione, sappiamo che cos'è, la sensazione. La discriminazione è la capacità di cogliere il segno particolare nell'oggetto, non è una mente concettuale. I fattori di composizione sono tutti altri concomitante, tipo il contatto, l'analisi, l'investigazione, l'intenzione, l'impegno mentale. Okay? Abbiamo i fattori mentali virtuosi, abbiamo i fattori mentali non virtuosi, eccetera. Ne abbiamo una lista di 51. E poi abbiamo le cinque coscienze sensoriali e la coscienza mentale. Okay? Quindi una persona è costituita da questa cosa, da questi cinque aggregati. Il problema è che questi cinque aggregati, okay, si chiamano aggregati appropriati contaminati. Aggregati appropriati contaminati. Si chiamano aggregati perché sono un cumulo di varie cose, no? Cumulo di varie cose. Sono contaminati perché? Perché sono il prodotto del karma e dell'afflizione. Okay? Noi compiamo delle azioni e queste azioni, che sono comunque nel migliore dei casi sono virtuosi, quindi abbiamo degli aggregati umani, eccetera, ma sono comunque queste azioni sono comunque compiute all'interno dell'ignoranza, che è questo fratendimento rispetto al modo di esistere dei fenomeni. Quindi le cause sono, essendo contaminati, il risultato è anche contaminato. Eh? Quindi sono contaminate anche perché sono sempre sono associate a tendenze disfunzionanti, hanno delle caratteristiche difettuose, sono associate per esempio alle afflizioni, eh? Afflizione come l'avversione, come l'odio, eccetera, rende la pratica difficile, la pratica del sentiero difficile. Anche se vogliamo, per esempio, anche se vogliamo essere una persona buona, un essere umano migliore, semplicemente dovuto al fatto che la nostra mente è associata a queste predisposizioni, il lavoro è molto difficile. Non abbiamo scelta, ok? Ci alziamo la mattina, vogliamo meditare, ci mettiamo lì a meditare, ok? Però incomincia a far male la schiena, la mente si addormenta, cioè tutto difficile, tutto difficile. Poi ci alziamo, ok? E casomai incontriamo, c'è la temperatura scende, quindi è sconfortevole, forse la mente non è molto contenta. Incontriamo qualcuno, questa persona ci dice qualcosa di un po' spiacevole e tutta la giornata è rovinata. Anche se avevamo l'intenzione di essere una persona buona tutto il giorno, di essere piacevole con gli altri, invece dovuto semplicemente aver ascoltato questa cosa tutta la giornata, e automaticamente il contatto con gli altri se ne risente. Non abbiamo scelta, ok? Questa siamo condizionati da queste predisposizioni, da queste tendenze che abbiamo. Quindi anche se vogliamo veramente, siamo determinati a essere un essere umano migliore, a far progressi, eccetera, eccetera, dovuta al fatto che siamo associati con la contaminazione, molto difficile, ci rende il lavoro molto difficile. E quindi sono appropriati, questi cinque aggregati sono appropriati perché sono appropriati dalle afflizioni. Okay? Dovuta avere delle afflizioni, ci appropriamo questi aggregati contaminati, no? Al momento della nascita. Quindi si chiamano cinque aggregati contaminati di appropriazione. Ok, quindi allora la sofferenza onnipervasiva di composizione, che cos'è? È questo stato. semplicemente perché abbiamo questi cinque agri, questo corpo e questa mente con delle caratteristiche difettuose, allora siamo al vertice di sperimentare sofferenza fisica e mentale a ogni istante. Basta che le condizioni si aggregano e sperimentiamo dolore all'interno del corpo o il tormento all'interno della mente. Okay? Abbiamo visto, no? Anche se siamo tutto andato bene, la meditazione eccetera, non abbiamo incontrato ancora qualcuno sul tragitto del lavoro che ci ha detto qualcosa, arriviamo al lavoro e invece al lavoro c'è qualcuno che ci dice qualcosa, ci mette una critica, dice che oggi abbiamo una faccia strana, cioè, o non riposata, no? Quindi una mera vibrazione dell'aria, okay? Una parola, no? È una vibrazione dell'aria, okay? Una critica è in grado di distruggere la nostra tranquillità per mesi. Quindi questo è lo stato precario nel quale ci troviamo, eh? Anche se sappiamo, ma sono delle parole, questa, cioè, anche se sappiamo che non dobbiamo dare del peso a questa cosa, la nostra mente si afferra. Quindi è un lavoro a lungo termine, okay? A lungo termine, piano piano. Okay? Non è in pochi mesi, in pochi anni che si può cambiare questa cosa, è una predisposizione che abbiamo da tempi senza inizio, okay? Quindi non è in poco tempo che si può cambiare la situazione. Comunque, basta che la temperatura descende da qualche gradi e siamo a letto per una settimana. Okay? La mattina si alza, siamo bene, la sera siamo malati. Questo è semplicemente dovuto al fatto che abbiamo questi aggregati, questo corpo e questa mente con delle caratteristiche disfunzionanti. Okay? O siamo lì tranquilli, cioè vediamo qualcosa di attraente che passa nel campo visivo e la mente è disturbata, cioè la mente parte e quindi c'è l'insoddisfazione, tutte queste cose, no? È uno stato molto precario, quindi a ogni istante, no? Un istante della nostra esistenza è il risultato di un karma precedente che sta maturando, no? Okay? E allo stesso momento stiamo creando, questo stesso istante diventa anche la causa per un'esperienza futura, okay? Quindi, quindi è così la cosa, a ogni istante quindi possiamo sperimentiamo varie esperienze piacevoli e spiacevoli senza controllo, che sono risultato di azioni passate, e a ogni istante creiamo delle cause per sperimentare questi risultati simili futuri. Okay? Quindi la sofferenza onnipervasiva di composizione è questo, no? È essere prigioniero in certo modo, no? In questa rete di problemi che sorgono uno dopo l'altro senza interruzione. È il fatto di essere in uno stato non illuminato, okay? Non risvegliato rispetto al modo di esistere delle cose, il fatto di avere un corpo che è nella natura della sofferenza, il fatto di avere una mente che è nella natura della sofferenza. Questa è la sofferenza onnipervasiva di composizione. Perché abbiamo questo, dobbiamo sperimentare gli altri due tipi di sofferenza, la sofferenza della sofferenza e la sofferenza onnipervasiva di composizione. Quindi, che cos'è la liberazione? È la liberazione. Che cos'è il nirvana? Il nirvana è essere liberato della sofferenza onnipervasiva di composizione. Siamo liberati dal corpo e della mente con tendenze disfunzionanti. Si chiama anche ogni sofferenza onnipervasiva di composizione semplicemente perché si prendiamo il corpo, okay? Dalla punta dei piedi fino alla sommità del capo è pervaso dalla sofferenza, non c'è un punto che è al riparo della sofferenza, o qualsiasi livello di esistenza, rame del desiderio o rame della forma senza forma, è anche pervaso di un livello un altro di sofferenza. La sofferenza onnipervasiva di composizione è onnipervasiva perché pervade tutte le dimensioni di esistenza. Quindi La sofferenza onnipervasiva di composizione è qualcosa di molto più, di qualcosa di sottile sul quale dobbiamo riflettere molto, è anche difficile generare il desiderio di liberarsene di questa cosa, no? Perché pensiamo sempre che se abbiamo le condizioni giuste, okay? Se abbiamo il partner giusto, il lavoro giusto, i soldi in banca abbastanza, forse l'esistenza può andare anche bene. Abbiamo questa concezione, non ditemi di no, l'abbiamo, ok? Questo è un chiaro segno che non abbiamo compreso abbiamo compreso il primo livello di sofferenza. Infatti vogliamo essere libero del primo livello di sofferenza, la sofferenza è la sofferenza, ma gli altri due no. Quindi è necessario analizzare ancora finché generiamo veramente questo desiderio di vedere che siamo prigionieri di questa cosa, no? E quindi generare il desiderio di uscire di questa. Perché finché abbiamo comunque la sofferenza onnipervasiva di composizione, 5 aggregati, dobbiamo sperimentare gli altri due. Non c'è modo. Quindi dobbiamo prendere la rinascita, l'abbiamo visto, così implica la rinascita. Dobbiamo invecchiare, dobbiamo essere ammalati, dobbiamo morire, dobbiamo sempre incontrare ciò che non vogliamo incontrare, dobbiamo sempre essere separati di ciò che vogliamo, che ci piace, dobbiamo, cioè, è così, dobbiamo sempre incontrare l'insoddisfazione, è così. Quindi la sofferenza onnipervasiva di composizione è paragonata a una persona che porta un fardello, no? Cioè porta il fardello. Quindi anche se si riposa di qua e di là, il fardello ce lo deve sempre portare. Quindi è la vera cessazione, quindi il portare, il camminare il fardello, no? È la sofferenza della sofferenza, il riposarsi è la sofferenza del cambiamento, ma alla fine la vera felicità, no? È quando il fardello è stato mollato, quindi il fardello che abbiamo sono i 5 aggregati contaminati, abbiamo 5 aggregati e questi 5 aggregati agiscono come calamita alla sofferenza. Questi 5 aggregati sono come una cicatrice, no? Che non guarisce mai, che siamo sempre lì a proteggere, però andiamo sempre a sbattere di quelli là, sempre. Quindi questa è la nostra situazione e abbiamo la capacità di uscirne. Okay? Quindi il lavoro è nostro, la scelta è nostra. Avete delle domande? Perché ho parlato per un'ora e 25 senza interruzione. Immagino che avete anche qualcosa da chiedere. Il senso di colpa è qualcosa di inutile. Il senso di colpa è qualcosa di... io non conosco bene il senso di colpa. Questo è qualcosa che abbiamo molto in Occidente, il senso di colpa. Se prendiamo per esempio il tibetano, non c'è parole per tradurre senso di colpa, è qualcosa che non esiste. È particolare dalla cultura occidentale il senso di colpa. Ok? Non ho mai ben riflettuto su che cos'era il senso di colpa. Io non soffro molto di questa cosa, però questo è dovuto, se predisponibilmente le menti sono diverse. Il senso di colpa forse sorge dall'educazione, dal contesto culturale, eccetera. I cristiani ben presente il senso di colpa, i cristiani. Una cosa, ci piace molto il senso di colpa. Non serve a niente. Ci paralizza, ci fa soffrire, non serve a niente. Però si può essere più specifica, eventualmente potrà rispondere un po' meglio. No. Senso di colpa è una sofferenza, è uno stato mentale sofferente, okay? Però non c'è, ciò che è stato fatto, nel senso che non è perché ci pensi che puoi cambiare qualcosa. Se potevi cambiare pensandoci, allora ci direi vai avanti, pensaci di nuovo, forse la cosa cambia, però ciò che è stato compiuto è stato compiuto. Cioè tirane delle conclusioni e determinati a riprodurre quello stesso errore. Però pensarci sempre a qualcosa che è stato compiuto nel passato non serve a niente. solo incrementare la tua sofferenza. Quindi questo è proprio questo, no? Che la mente crea la sua propria sofferenza. Esempio, il senso di colpa. Ah sì, ma cioè, abbiamo tutti dei difetti. Non c'è nessuno nell'esistenza ciclica che non ha dei difetti. Siamo colmi di difetti. Abbiamo anche delle qualità, ma siamo pervasi di tendenze disfunzionanti, di difetti. Compiamo degli errori ogni giorno, anche se non vogliamo, anche se siamo motivati bene. Ok? Quindi anche questo... La vergogna di se stesso è qualcosa di completamente inutile, è produrre la propria sofferenza. È tradotto dal cristianesimo, quel senso di colpa è praticamente mandarti all'inferno. Quando uno fa un'azione sbagliatissima, ti vergogni di te stesso, no? Ah, ok, in questo contesto. In questo contesto. Cioè, ok, allora no... Ok. Allora, sì, anche nel buddismo abbiamo vergogna e imbarazzo. Vergogna e imbarazzo, ok? Quindi, in generale, la vergogna e l'imbarazzo sono dei fattori mentali virtuosi, ok? Adesso vediamo anche in quale contesto. Invece la non vergogna e il non imbarazzo sono dei fattori mentali non virtuosi e dal punto di vista di certe scuole come i Vaibhashika sono presenti in ogni stati mentali non virtuosi. Quindi ogni volta che un'azione negativa viene compiuta, no? All'incontro degli altri, come rubare, non so, uccidere, quello che volete, il mentire, la parola che ferisce, cioè è presente nella mente la non vergogna e non imbarazzo. Okay? Quindi la vergogna e l'imbarazzo sono stati mentali che ci trattengono, vanno sviluppati perché ci trattengono dal compiere le azioni non virtuose. Quindi vergogna e imbarazzo hanno la loro funzione e c'è una distinzione tra i due, che la vergogna di solito è rispetto a se stesso, okay? E l'imbarazzo è rispetto agli altri, okay? Nel senso che quando sì, per esempio qualcuno ferisce verbalmente un'altra persona dovrebbe sentirsi in imbarazzo, ok? Perché genera della sofferenza per qualcuno, e in questo contesto, e anche dovrebbe aver vergogna perché è andata al di là della sua etica, ma non in un contesto, non c'entra niente con un contesto morale o cattolico, ok? È semplicemente dal punto di vista che abbiamo generato sofferenza per qualcuno, che siamo andati al di là della nostra etica, no? Perché al minimo qualcuno che prende rifugio a uno dei 12 precetti è di non più far soffrire qualcuno in qualsiasi situazione. Quindi automaticamente quando qualcuno ferisce una persona dovrebbe avere questa vergogna e imbarazzo, perché è andata al di là dei precetti che ha assunto davanti al suo maestro, eccetera, eccetera. Quindi da questo punto di vista, e quindi è abbastanza sano da questo punto di vista. Però dopo la vergogna di se stesso un'altra storia, questo è già molto più storto. Queste sono attività mentali che sono presenti in certi, sono fattori mentali presenti in certi stati mentali, okay? Quando un'azione non virtuosa viene compiuta, e quindi ripeto che cosa è un'azione non virtuosa, perché qui ho il quiz, okay? Di quelli che erano qui la settimana scorsa. Allora, la definizione di un'azione non virtuosa, okay, è ciò che dimora in una maturazione di sofferenza, e invece un'azione virtuosa è ciò che dimora in una classe di maturazione di felicità, okay? Quindi virtù o non virtù nel buddismo non viene assolutamente presa nel contesto culturale, nel contesto cattolico, nel contesto morale, eccetera. Si chiama virtù ciò che produce un'esperienza di felicità, e si chiama non virtù ciò che produce un'esperienza di sofferenza. Punto. Non c'è niente da elaborare al di là di questo. Okay? Quindi ecco, abbiamo parlato di virtù, di non virtù. Volevo chiarire questa cosa. Avete altre cose? Scusa. Sì. Quando prima parlavi della bottiglia. Sì. Esatto, assolutamente, 100%. Se uno viene da un cazzotto, oppure se uno più sono io che... Questa è una buona domanda. Anche ok, sicuramente, cioè, qui no, ok, queste sono esperienze molto più concrete. Ok, allora, rispetto, si prendiamo rispetto all'odore, no? Ciò che puzza per me forse non puzza per qualcun altro, giusto? Ma ci sono delle puzze un po' assurde. Sì, ok, quindi anche sì, il fatto che ci sia una comunità linguistica che è d'accordo per dire che questo puzza, è semplicemente una convenzione. Puoi trovare un'altra comunità che ti dice che questo non puzza. Sì, anche un cazzotto fa male. Un cazzotto fa male, ma dipende anche da chi lo riceve. Ok? Dipende anche da chi lo riceve. Però diciamo qui bisogna, per il caso dovremmo guardare il sorgere dipendente, ok? Questo è un esempio un po' più meno evidente, però se prendiamo i criteri di bellezza o di bruttezza, ok? Quindi noi in Occidente abbiamo certi criteri di bellezza e di bruttezza, ok? E quando guardiamo le cose ci sembrano che oggettivamente sono belli o brutti, eh? Questi criteri, okay? Che esistono del lato della persona, ma questa stessa persona che per noi viene considerata come una persona attraente, la metti in un'altra cultura, non esiste. Per esempio, se vediamo certe culture in Africa, dove si allungano il collo, dove si allargano le lepre, questi sono criteri di bellezza, e più la donna ha il collo lungo, le lapre proeminente, ok? Più questa donna è considerata come bella. Per noi no, è l'opposto. Quindi vedi che completamente è una cosa che è la mente che crea questi criteri. Non esistono, non sono intrinseco all'oggetto. Sono meramente designati, no? C'è una comunità linguistica che, allora siamo all'interno c'è la comunità degli esseri umani. Quindi gli esseri umani condividono un'esperienza comune nel loro ambiente, perché percepiamo l'ambiente in un modo comune, nel senso che l'esperienza, diciamo, dei vari sensi, no? Appaiono più o meno nello stesso modo. E poi all'interno di queste della comunità degli esseri umani hai delle comunità più strette, no? Che hanno quindi un karma un po' più stretto. Abbiamo gli europei che sono diversi culturalmente che gli asiatici o che gli africani o che gli americani. Okay? Poi all'interno della comunità europea possiamo restringere e vedere che dopo ci sono dei paesi, okay? Dove certi criteri, abitudine, eccetera. Però quindi sono queste comunità linguistiche che decidono di utilizzare i fenomeni in un certo modo, di denominarli in un certo modo e di... di valutarle in un certo modo. Questo è buono, questo è meno buono, questo è molto buono. È semplicemente la mente che decida. Non c'è niente nel lato dell'oggetto che giustifica questa etichetta, questa sovraimposizione, no? È la mente che decide. Perché si prendi questi, altrimenti sarebbe una verità universale. Perché visto che esiste del lato dell'oggetto, allora tutti lo dovrebbero percepire nello stesso modo, perché è obiettivo. Quindi tutti dovrebbero avere la stessa sovraimposizione rispetto all'oggetto, tutti dovrebbero avere dell'attaccamento, sia attraente, dell'avversione, sia non è attraente. Il nome dovrebbe anche... apparire direttamente alla mente senza che nessuno te lo dice. Anche il modo di utilizzare l'oggetto dovrebbe essere apparire direttamente per la forza di questo oggetto, ma niente così. c'è sempre qualcuno che dice questo è questo, questo si chiama così, questo si utilizza così, questo va bene, questo non va bene. E da quel momento in poi tutti lo accettano. Però è tutto meramente etichettato dalla mente. È la mente che crea tutte queste convenzioni. Quindi questo lo faremo più avanti. Forse potremmo anche estrarre delle strofe di altri testi per entrare in questa discussione. Questa è la sezione di insegnamento che appartiene allo scopo, il prossimo scopo. Quindi, bene questa cosa? Sì, è più facile capirlo per le grandi cose. Ah, c'è anche la penna. Per il cazzotto che è una cosa piccola che però vediamo... La penna, per esempio, la penna. Pensiamo che tutti una penna, no? Cioè tutti gli esseri umani prendono la penna e utilizzano come la penna, quindi sembra che la penna esista del suo proprio lato, ma sì, questo era veramente una penna. Allora anche quando la butta un cane, il cane non corre dietro per andare a cercarla, no, perché è fatto per scrivere. Ma il cane invece ha un'altra proiezione su questo stesso oggetto. Tutto sono delle proiezioni. Il fatto che prenderti un pugno fa male, questo fa male, chiaro. Però quello stesso pugno per un'altra persona non avrebbe lo stesso impatto. Quindi anche questo, vedi, è dipendente. Dipende. Questa è una parola chiave, il fatto che le cose dipendono. Scusa, il nostro corpo è detto fatto della natura della sofferenza, no? Anche la mente, sì. È nella natura. I cinque aggregati, come avevamo detto prima, cioè noi proteggiamo una ferita come una ferita e nonostante tutto andiamo a sbattere. Sì, questo è per illustrare, è un'altra analogia per mostrare che questo corpo e questa mente sono una calamita che attraggono la sofferenza. No, è riferita al cazzotto. Sì. Noi, che anche se vediamo che abbiamo una pelle bella, però in effetti siamo come delle piaghe viventi, cioè perché anche il sole ci brucia, il freddo ci schiona, cioè è anche magari, vabbè, il cazzotto è doloroso, ma perché siamo della natura della sofferenza. Sì, quindi dipende anche da questo. Però era per capire che ciò che voleva illustrare. No, forse sono io che sono fissata. Ciò che volevi illustrare è il fatto che fa male di per sé. Io l'ho capito così. Sì. Fa male di per sé. Beh, non necessariamente. C'è una natura di sofferenza. No, certo. Cioè, il contatto. La realtà convenzionale non la puoi negare. Ok? La realtà convenzionale. Non stiamo dicendo che a prendersi un pugno non fa male. Non ho mai detto, aspetta, fammi finire. Non stiamo dicendo che prendersi un pugno o uno schiaffo non fa male. Fa male, ma dipende da causa e condizione e non ha un'esistenza intrinseca. È molto diverso. Okay? Per esempio, l'immagine che hai è che il dolore esiste obiettivamente nel pugno. Nel prendersi il pugno il dolore esiste intrinsecamente, ma no, è un sorgere dipendente. Questa è un'altra cosa, sì. Appunto, se uno ha un disturbo neurologico, una neuropatia, eccetera, non sente, esatto. Non sente. Sì, sì, non sente. Anche se il pugno te lo dà il tuo bambino che tieni in braccio, ti dà un pugno, ti tira i capelli, non c'è l'imputazione di dolore, esatto. Se c'è la cosa, sentirsi offeso. Cioè è quello, uno ti dà un pugno e tu ti senti offeso, è quello che fa male più del pugno, secondo me. E quindi capire comunque è dipendente la cosa, no? L'esperienza di uno non è l'esperienza di un altro, altrimenti questo sarebbe il marchio dell'esistenza intrinseca, dell'esistenza oggettiva. Sì, le cose esistono oggettivamente, allora tutti hanno la stessa esperienza. Anche perché ti posso dare un pugno, tu sei negato, a nasti, ti do un pugno per salvarti. Ti ammortisco per salvarti. Un'altra illustrazione. Va bene, ok, ritorniamo alle nostre pecore, come si dice in Francia. Allora, noi abbiamo visto la sofferenza la sofferenza degli esseri umani. L'abbiamo visto che è divisa in 8, poi abbiamo visto la sofferenza più generale in 6 e abbiamo appena visto la sofferenza onnipervasiva di composizione. Okay? a questo momento si dovrebbe essere il contemplare la sofferenza che esiste anche nei reami superiori. Okay? Nell'amrima c'è questa contemplazione adesso, quindi i reami superiori sono quelli dei dei, del rame del desiderio, no? Ci sono dei livelli più elevati nel rame del desiderio. Però ho paura che se entro in questa sezione andiamo avanti fino a tardi. Quindi a quel punto, rispetto al testo, io mi fermerei qui. Un'ultima cosa che ho trovato, sì, qui ho un'analogia, ancora rispetto per farvi capire quali sono questi tre tipi di sofferenza, no? C'è un'analogia se prendiamo l'oceano, quindi l'oceano nella natura dell'acqua, no? Le onde... Questo terzo tipo di sofferenza, la sofferenza onnipervasiva di composizione, quindi può essere simile all'oceano, okay? Di qua di là, dovuto al vento, okay, si alzano delle onde molto potenti, no? delle grosse onde molto potenti. Queste grosse onde molto potenti sono paragonate alla sofferenza della sofferenza, ok? È il vento che le fa sorgere, è paragonato alle varie condizioni, circostanze nella vita che fanno sorgere queste esperienze di difficoltà fisica e mentale, okay? Quindi queste grosse onde è nella natura dell'oceano, eh? È nella natura dell'oceano, e anche quando queste grosse onde dopo si calmano e che abbiamo queste piccole onde, no? Quelle piccoline, è sempre nella natura dell'oceano, non passa al di là della natura dell'oceano. E questa accalmia, il problema è che questa accalmia, no? Noi abbiamo una sovrimposizione erronea sul calmo, no? Perché il calmo arriva successivamente alla tempesta e anche precede la tempesta, no? Quindi questa è la sofferenza del cambiamento. Quindi la sofferenza del cambiamento è semplicemente la diminuzione di un disagio precedente, e comunque aspettatevi all'incremento della sofferenza se la cosa viene dovuta alla natura di cambiamento delle cose, no? Quindi, cosa. Okay. Se avete un altro paio di domande, altrimenti concludiamo la sessione. Comunque, l'importante è di riflettere su queste cose. Cioè venire qui e ascoltare l'insegnamento, no? Perché immagino che siete anche al Allora, sì, chiaro. Infatti, se da studiare per la vita, sì. Però, diciamo, non c'è bisogno, anche se lo volete fare, è fantastico, ma non c'è bisogno di tuffarsi in questi studi molto approfondito dove il capello viene spezzato in otto, eccetera. Questo è per le persone che vogliono dopo, diciamo, mantenere l'insegnamento, no? in una lingua occidentale, no? No, assolutamente no, cioè, bisogna avere molto tempo, cioè, bisogna lasciare la famiglia, i figli, il lavoro, cioè, è una dedicazione, no? È un'altra cosa, quindi non c'è bisogno di far questo. Ci sono anche avete parlato di programmi, ci sono dei programmi che si possono fare per corrispondenza, dove si possono studiare, ma ci sono anche libri che possono essere letti. L'importante, come dicevo prima, no? Sono questi trattati dell'Amrim che spiegano i stadi del sentiero. Questo è l'essenza della pratica, okay? Quindi presentano il modo, presentano chiaramente, in un modo più o meno conciso, dipende dalla spessore del trattato, ciò che deve essere, i punti principali che devono essere contemplati, messi in pratica, okay? E in quel modo cerchiamo di far maturare la propria mente, no? E di sviluppare delle qualità e eliminare i difetti, okay? Però questo può essere fatto a un livello, non avete bisogno di rinunciare alla vostra vita, questo si fa, cioè, come esattamente come nella vita di tutti i giorni, il sabato o la domenica aprite un libro, cioè, e leggete quello che volete. Beh, si può anche fare in quel modo, no? L'importante è di fare qualcosa, di incominciare a fare qualcosa di piccolo, ma qualcosa di qualità. Fate piccolo, ma fatelo bene, ok? E non c'è assolutamente bisogno di rinunciare alla vostra vita per ottenere la liberazione. Infatti il mio maestro anche ce la diceva: la liberazione si ottiene anche come capo di famiglia, cioè non non c'è contraddizione, ok? Anche con gli stage, scusate, che fanno di 3 giorni, cioè anche quello tocca lasciare il figlio, magari 3 giorni le nonne, ma quelli sono importanti. Non ho capito. Gli stage che vengono svolti fine settimana. Ah, tipo i seminari che vengono fatti. Sì, avete la possibilità di venire, questo è buono, perché incontrate dei maestri autentici. Che è enorme, che cioè, importante, se lo potete fare, però altrimenti potete anche procurare l'audio, ascoltare l'insegnamento a casa, ok? Quindi tutto dipende delle possibilità che abbiamo, okay? Dipende dalle possibilità, però l'importante comunque, quello che volevo dire, è che ascoltare una cosa così una volta, ok, o rifletterci una volta, meglio di niente, però non cambia niente. Sinceramente, esatto, dovete avere una visione. Allora, dovete, se vogliamo veramente impegnarci in qualcosa, dobbiamo avere diligenza, okay? Dobbiamo fare qualcosa di piccolo, ma va fatto bene. Non c'è bisogno di mettersi a seduto 4 ore al giorno, le gambe incrociate fino al collo, eccetera. Non è questo lo scopo, ok? Anche se facciamo 10 minuti, 15 minuti ogni giorno, però mettiamoci la mente e qualità, okay? Stiamo facendo questo, non pensando a qualcos'altro. Anche se si legge una pagina di Lamrim al giorno, è fantastico, okay? E poi piano piano. Allora bisogna avere una visione a lungo termine, okay? Infatti Sua Santità dice: guardate indietro dopo 30 anni di pratica. E dopo dice: dopo 30 anni di pratica vedrete dei piccoli cambiamenti. E dice che questi piccoli cambiamenti sono fantastici. È una cosa fantastica, questi piccoli cambiamenti solamente. Quindi visione a lungo termine, ok? Così, perché altrimenti siamo scoraggiati, no? Perché l'errore è che all'inizio ci buttiamo corpo e anima in questa cosa, non c'è molto entusiasmo. Poi vediamo che poi piano piano una settimana, un mese, 6 mesi, poi la cosa crolla, ok? Perché c'è troppe aspettative. Meglio far poco, però regolarmente e per il resto, no? Finché la cosa succede. E quindi visione a lungo termine, prive di aspettative a lungo termine. Comunque non c'è nient'altro da fare. C'è nient'altro da fare. Cioè, l'isola ciclica abbiamo provato di tutto, cioè, guardate anche nell'arco della vostra vita, no? Avete provato in tutti i modi per ottenere la felicità, avete provato in tutti i modi, avete provato la relazione, avete provato questo, quest'altro, avete provato a mangiare sì, italiano, francese, con il pimento, senza il pimento, cioè alla fine siamo sempre lì, eh? Non cambia niente, la nostra mente in generale degenera anche se non facciamo attenti. Quindi non c'è nient'altro da fare. E poi è anche affascinante, no? Cominciare a lavorare sulla mente, a entrare in. Per esempio, il corpo, conosciamo bene il corpo, no? Conosciamo bene il corpo, però la mente non conosciamo niente. Niente. È affascinante cercare di entrare in contatto con la mente, con cos'è l'io, con cos'è la persona. Cos'è il suo modo di dimorare? Qual è il modo di dimorare dei fenomeni? Cioè, affascinante. Quindi, secondo me non c'è nient'altro da fare. Per risolvere il problema. Perché ci abbiamo provato di tutto. Esatto. E questo è lo scopo del buddismo. Il buddismo non ha altro, nessun altro scopo di esistenza che la diminuzione della sofferenza fino all'eliminazione completa. Fino all'eliminazione completa. Non ha nessun altro scopo che questo. Quindi, sì, qualcosa ha senso, mettetelo in pratica, vedete se funziona. Sì, non ha senso, allora lasciate perdere. Okay? Però, sì, cioè, riflettete e vedete se effettivamente è così. Ok, prego, grazie a voi. Allora, all'inizio abbiamo generato la motivazione corretta, alla fine quello che deve essere fatto è la dedica, per fare in modo che questa energia virtuosa, queste virtù che abbiamo accumulata, non venga persa dalla generazione di stati mentali inappropriati come l'odio, o non matura anche come semplicemente con momenti di sofferenza del cambiamento in esistenza, ma facciamo in modo, dedicando queste virtù, no? Andiamo a dedicarle e aggiungerle all'oceano di dedica di tutti i Buddha e Bodhisattva, okay? E quindi questa cosa dimora finché i risultati verranno ottenuti, finché avremo manifestato lo stato della liberazione, dell'illuminazione. Allora queste virtù che abbiamo creato oggi continueranno a produrre i loro effetti e dare i loro benefici. Questo è lo scopo della dedica. Okay? Quindi in generale dedichiamo per fare in modo che teniamo velocemente lo stato di Buddha per essere il beneficio degli altri, che tutti gli esseri possano anche loro ottenere questo stato. Viene anche dedicato alla generazione della mente dell'illuminazione, velocemente. Viene anche dedicato alla lunga vita dei maestri che insegnano i veri sentieri verso la vera cessazione, e affinché l'insegnamento dimore a lungo in questa terra. In generale questa è la dedica, quindi io di solito le faccio in tibetano, d'abitudine. Voi avete qui, vedo che adesso hanno messo le dediche, fantastico, ok? Quindi si va avanti. Gyawa de anyuda da lama sangye drungyo ne androwa jigya maloba neye sala goba jo jangjo zemjo rinpo je ma ye ma nam jinju ji yama nyamba nyamba yong gane gondu belwa ji Kare rawe gorwe jingam de demdam dewa malu juwe ne Chenre jiwa tenji gyazo yi Shampe site pandu den juji Daso jinye sambe gyawa di Demdam drawa kuna gambe da Jiyamba jizu lozan drama yi Tembe nyambo rindu silje Grazie.